9.57, sto uscendo dalla casse bis per prendere la corda anulare. Sto ascoltando la Radio Città Futura, dove c'è una versione, direi, reggae di un famoso brano dei Pink Floyd. E praticamente dal punto di vista dell'informazione mi sembra che quest'anno, anche in assenza del giallo dell'estate, della Circe della Versilia, del giallo di Via Poma e di altre amenità di questo tipo, veramente non... Prendi i giornali, c'è il nulla eterno leopardiano. Non so quale storico in cerca di pubblicità parlò di fine della storia. Beh, io credo che per questi giorni si possa tranquillamente parlare di fine della cronaca. Anche i più riottosi e oltranzisti tra i protagonisti del teatrino della politica sono andati a lessarsi sulle nostre spiagge, non contenti di quanto si stessero lessando fisicamente e mentalmente nella capitale, e quindi anche la sequela tutto sommato divertente delle varie gaffe incrociate, dei piccoli golpe a tradimento all'interno della maggioranza che aveva animato la cronaca degli ultimi giorni, anche quella è sparita dalle cronache e c'è rimasto appunto il nulla eterno leopardiano, nel quale navigano, devo dire, abbastanza bene gli stegisti che nelle redazioni possono fare il bello e il cattivo tempo, non c'è nessuno che li controlla e quindi possono per esempio citare il lunedì come notizia vera qualsiasi notizia riportata dai tabloid domenicali londinesi.